467. Contorno di filetti di sogliole a un fritto dello stesso pesce. Prendete un paio di sogliole mezzane oppure una sola, staccate nei filetti dopo averle spellate, che saranno 4, e tagliateli per traverso a listarelle fini come fiammiferi. Se li tagliate in sbieco, li otterrete alquanto più lunghi e sarà meglio. Metteteli in una scodella col sugo di un limone, o più se occorre, e lasciateli così marinare per 2 o 3 ore, il che li farà irrigidire, che altrimenti riuscirebbero mosci. Poco prima di servire in tavola, asciugateli con un canovaccio, immergeteli nel latte, infarinateli, cercate che non facciano gomitolo e friggeteli nell'olio. Poi salateli leggermente.